America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Comincio con una notizia di cronaca che riguarda l'apertura di questa settimana. Abbiamo una visita importante a Washington. I vertici europei si incontreranno con Barack Obama, Van Rompuy e Manuel Barroso. Sono nella capitale americana. L'incontro al vertice è un incontro programmato, avviene ogni 6 mesi, però chiaramente avviene in una settimana molto particolare, perché domani per esempio ci sarà un incontro dei ministri finanziari europei, giovedì parlerà Mario Draghi, farà il rapporto annuale della banca al Parlamento europeo, e dunque siamo ancora nel mezzo della crisi. Si discuterà un po' di tutto, di barriere tariffarie, della possibilità di migliorare i commerci, però al centro dell'attenzione resta la richiesta americana di passare all'azione. Barack Obama lo aveva chiesto a Cannes, da allora non è successo nulla. Devo dire, è un po' deludente che ci siano questi due interlocutori oggi a Washington, perché non potranno dire nulla a Barack Obama, non potranno prendere nessun impegno, e torniamo al vecchio solito problema dell'Europa, e cioè che questa Europa non è rappresentata, perché quando Washington deve chiamare l'Europa non ha un numero di telefono. Sarebbe stato meglio forse che ci fosse venuta direttamente Angela Merkel. Police say they will be charging IMF managing director Dominique Strauss-Kahn with criminal sexual act and attempted rape, among other charges. This comes after a housekeeper said she was attacked at a hotel in Times Square. Oggi però non entreremo nel dettaglio di quello che succederà, perché gli incontri saranno nel corso della giornata. Avete sentito però un riferimento a quello che fu il grande scandalo Strauss-Kahn. Ve ne parlo perché proprio in questi giorni nuove rivelazioni messe insieme da un grande giornalista americano, un grande giornalista investigativo, Edward J. Epstein, ha creato una specie di terremoto in tutti i media mondiali, perché la storia di Strauss-Kahn resta comunque una storia incredibile, ed Epstein è riuscito a raccogliere informazioni inedite. C'è un terzo uomo in questa storia, ci sono una serie di personaggi che ruotano attorno alla vicenda della cameriera che entra nella camera dell'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, però c'è un personaggio che a un certo punto non si sa chi sia, ma che svolge un certo ruolo molto particolare. Vedremo più avanti in che cosa consiste questo ruolo. Un altro elemento riguarda i tempi. Epstein ha potuto verificare i tempi esatti delle chiavi elettroniche nella porta di Strauss-Kahn, il momento di entrata e il momento di uscita, e si scopre che la signora Nafissatou Diallo, cioè la cameriera, entra nella camera fra le 12.06 e le 12.07, però alle 12.13 Strauss-Kahn già parlava con la figlia Camille, e parla con Camille per 40 secondi. Sappiamo questo perché Epstein ha potuto avere accesso alla documentazione delle telefonate, e dunque abbiamo con noi, per cercare di capire un po' di più di questa storia, Ed Epstein in linea. Buongiorno Ed. Good morning Mario. Congratulations first of all. Yes, I didn't expect it to cause such a storm of fire in France, but apparently it is. In questa prima chiacchierata con Ed, mi racconta come ha avuto queste informazioni. Non mi rivela la fonte, ma sono fonti confidenziali, ma chiarisce che questa documentazione è una documentazione ancora segreta nelle mani della procura di New York. Lui è riuscita ad ottenerla ed ha potuto visionare i videotapes che sono stati consegnati dall'albergo agli inquirenti. Ha potuto visionare il traffico di telefonate, non soltanto dell'albergo, ma anche del telefonino di Strauss-Kahn, e di fatto ci rivela che ha potuto vedere questi documenti segreti, dove tutta la cronologia di quello che succede è documentata in modo straordinariamente dettagliato. Ecco, vorrei aprire una piccola parentesi su chi è Ed Epstein, perché è un personaggio abbastanza leggendario, lo conosco da molti anni. Ed Epstein è un uomo molto introdotto a New York, molto amico di Anna Wintour, la direttrice di Vogue, e dunque è un uomo che ha molti dentellati. Nella mia chiacchierata con lui sono andato avanti cercando di capire un pochettino di più, e anche un po' qual è la sua sensazione. C'è davvero una conspiracy? C'è qualcuno che è stato il grande burattinaio? Well, they high-five each other 3 or 4 times, they hug each other, they kick their legs up and down in a way that I've never seen before, as if they shake hands, they clap hands. Devo dire che una delle rivelazioni più interessanti, lo ha già scritto in parte nell'articolo, ma qui mi dà una versione molto più dettagliata di quello che ha visto, riguarda questa specie di strano balletto che questi due uomini che hanno condotto l'investigazione dell'albergo sulla dinamica dei fatti fanno a un certo punto. Secondo Epstein, quello che è successo è che a un certo punto la cameriera è lì seduta in una stanza come un pacco postale per quasi un'ora in attesa di capire che cosa succederà di lei e della sua storia, mentre gli investigatori e i responsabili della sicurezza non soltanto del Sofitel e dunque dell'albergo, ma anche del gruppo Accor che controlla la catena dei Sofitel, sono al telefono e cercano di ricostruire esattamente che cosa succede, ma, sostiene Ed Epstein, attendono l'autorizzazione a procedere. E il punto chiave c'è quando questa autorizzazione a procedere arriva, dopo appunto oltre un'ora, e quindi possono chiamare la polizia. E la domanda curiosa è come mai non hanno chiamato la polizia subito se c'era questa situazione di emergenza. No, c'è un'ora in mezzo, dunque c'è qualcuno che sta cercando di controllare. Non appena viene l'autorizzazione a chiamare la polizia e uno dei responsabili, Adrian Branch, chiama appunto il 911, il 911, per avvertire la polizia, subito dopo vediamo Branch che va con quest'uomo misterioso che, come avete sentito, Ed Epstein definisce il terzo uomo, e ci racconta questa straordinaria danza che lui ha visto in questi nastri. Cioè, i due uomini si danno il 5, fanno high five, come ci dice Ed Epstein, e poi partono in una strana danza che dura quasi 3 minuti. Sollevano le gambe e poi saltano e ballano. Dice, una cosa veramente molto bizzarra vedere questi due omoni alti, grandi, che fanno questa strana danza non dissimile da quelle che uno potrebbe vedere quando in una squadra di football si fa un punto o quando c'è una vittoria sportiva. Ecco, questo elemento dà l'idea ad Epstein che i due avevano raggiunto un obiettivo. Non si sa naturalmente quali sia, non si può fare il processo alle intenzioni, però la conclusione, dice Epstein, è che alla fine Strauss-Kahn è stato eliminato dal gioco politico. Quando chiedo più precisamente ad Epstein se il partito di Sarkozy potesse essere direttamente coinvolto, mi risponde questo. I don't know who was behind it. I would say they were professional people who knew how to do things like dismantle or disable a telephone, people who knew how to deal with the police. I think that whether they were intelligence or just security people or just freelancers, I don't know. Sostanzialmente Epstein non si scopre, non vuole dire più di quello che può, però in qualche modo ricorda il vecchio detto latino, cui prodest, a chi giova quello che è successo, non giova certamente a Strauss-Kahn. E un'altra anticipazione che ho avuto da Ed Epstein è che cercherà di far uscire al più presto questo video. Mi ha raccontato anche di essere stato tormentato da radio, televisione di tutto il mondo, l'hanno chiamato dalla Corea addirittura per cercare di chiedergli notizie e informazioni su questo scandalo che ha dominato l'estate e l'immaginazione del mondo intero. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il terzo uomo non è soltanto quello di Ed Epstein in questo scandalo Strauss-Kahn, ma è un celebre film storico del 49 con Orson Welles, sceneggiatura Graham Greene, Howard Trevor, David Selznick, la produzione, un classico del 49 e una costante, quella del terzo uomo in un thriller. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.